Pronto? Ci sì, senti? Pronto. Vai, raccontaci che succede. Insomma, davanti all'occupazione delle cagne sciolte in via Ostenza 137 ci sono alcune macchine dei carabinieri, dei ROS, e in questo momento insomma non sembra che sia un tentativo di sgombero, ma sicuramente sono qui per insomma con la motivazione del furto di energia elettrica. Il loro cercano insomma di vogliono identificare delle compagne sostanzialmente. Le compagne sono riuscite a uscire da dentro, il cancello in questo momento è chiuso e c'è appunto guardie e compagne fuori dal cancello. Questa è la situazione che c'è in questo momento. Non riesco a dirvi molto di più perché non sono riuscita a avvicinarmi, ma adesso lo faccio e vediamo se riusciamo a dirvi qualcosa di più insomma. Comunque i microfoni sono aperti, richiami quando lo sai solo. Di più. Ricordo che siamo in corrispondenza con le compagne che sono davanti ai cagni sciolti. Aspetta un attimo. Sì. Un attimo solo che arrivo. 137 via Ostiense, sì. Per chi vuole raggiungere il posto. Sì. Buonasera compagne. Nulla, qui non so se hanno già fatto un breve racconto, però insomma ci sono i ROS che stanno facendo questa splendida operazione, per adesso stanno identificando 10 compagni e compagni, e diciamo che modus operandi da coatteria come sono soliti, per adesso insomma la presenza solidale è altissima. L'animo è piuttosto alto perché non ce ne frega niente essenzialmente di questi imbecilli, e speriamo presto di tornare a casa a mangiare. Va bene. Se volete richiamateci. Noi continuiamo a lanciare l'appello per raggiungere il posto. Sì, vale la pena. Certo, se qualcuno ci vuole raggiungere, perché non si sa mai. Non si sa mai. Infatti, andate 137 via Ostiense, dalle cagne sciolte. Dai, buona lotta, ciao a tutti. Ciao.